e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia, Sant'Ambrogio permettendo, noi siamo, scusatemi, non è più Sant'Ambrogio, oggi vedo già i tecnici che si sorprendono, no, e quindi festa dell'Immacolata permettendo, noi siamo in diretta e con le banche chiuse, le società di intermediazione finanziaria chiuse, stranamente, lo dico senza polemica, però la borsa oggi va benissimo, i pochi investitori che possono operare infatti hanno portato gli acquisti complessivamente al più 1,6% nell'indice FTSE MIB, con titoli come Fondiaria SAI che guadagnano il 9,4%, il Banco Popolare l'8,7%, Fiat più 4% come la Popolare di Milano, Mediolanum più 3,5%, Generali più 3%, UbiBanca più 2,4% come Unicredito, Mediobanca anch'essa più 2,4% come Buzzi Unicem, Italcementi più 2,3% come Intesa San Paolo, infine l'1,9 lo guadagnano Monte dei Paschi e Parmalat. E ancora l'Automatica più 1,8, Azimut più 1,5 come Unipol, Campari, Snam, Retegas ed Exor. Chiudiamo con Pirelli più 1,3%, Eni più 1,2%, Prismian più 1%. Molto forti quindi Fondiaria SAI, e non è un caso infatti che anche tra i migliori e peggiori risulti praticamente il secondo miglior titolo dopo investimenti e sviluppo. Molto forte, dicevo, e molto forte anche il Banco Popolare, perché rialzi dell'8,7% fanno veramente notizia. E non è un caso infatti che Milano oggi sia la borsa migliore tra quelle europee: Parigi più 0,80, Francoforte meno 0,3, Londra meno 0,2%. Prima di aprire la stura alle polemiche, faccio notare che insomma, non è la prima volta che con mercati praticamente semifestivi, con tutti gli operatori in ferie, in vacanza, la borsa sale così tanto. Una polemica che abbiamo già seguito negli anni passati. Comunque parleremo di borsa, parleremo in apertura però ancora dei temi europei. Ieri abbiamo ospitato l'opinione dell'economista nonché editorialista del Sole 24 Ore, Roberto Perotti, fortemente contrario, diciamo, al salvataggio dei paesi, la metafora del medico che se è troppo pietistico fa del male al paziente, meglio amputare piuttosto che la cancrena si diffonda, adesso sintetizzo, e quindi meglio far fallire, guidando il fallimento, i paesi come sono Irlanda o eventualmente Portogallo, e anche dare la rete di protezione alle banche europee esposte verso questi paesi, piuttosto che continuare ad allargare, diciamo, il virus. Contrario invece sempre Perotti all'ipotesi che dell'Eurobond, dice in sostanza, il contribuente tedesco difficilmente potrà usare i suoi risparmi e i suoi contributi per salvare Spagna e eventualmente l'Italia qualora fosse richiesto. Per cui questa è l'ipotesi molto forte, molto tranchant, molto rigorista, diciamo, di Perotti. Oggi ne ospiteremo un'altra invece diversa, non dico diametralmente opposta, ma sicuramente diversa. Poi parleremo invece di un altro tema europeo nella seconda ora, un tema che riguarda da vicino l'Italia, e si chiama il tema dei brevetti. Che cosa è successo? La Commissione europea ha proposto di avere 3 lingue ufficiali per i brevetti, oltre all'inglese, il francese e il tedesco. Netta opposizione di Spagna e Italia nei mesi scorsi, perché hanno posto il veto. Questa è una decisione che deve essere presa all'unanimità a livello europeo. Italia e Spagna hanno posto il veto perché dicono di fatto verrebbero discriminati dagli altri paesi, propongono che vi sia o la lingua unica inglese oppure che ogni paese possa adottare la sua lingua. Il timore è che questa sia la prima breccia, il primo cavallo di Troia per poi arrivare a 3 lingue ufficiali nell'Unione Europea, che avvantaggerebbero chiaramente anche in tema di concorsi e quant'altro tutti i paesi o gli abitanti madrelingua di questi paesi a discrimine degli altri. Ebbene, si è scoperto che 10 paesi europei stanno preparando una lettera da inviare a Bruxelles in cui sostanzialmente, utilizzando una clausola del Trattato di Lisbona, aggirano il veto posto da Spagna e Italia e vogliono andare degli accordi tra questi 10 paesi per cui si possono usare queste tre lingue, il che oltretutto sarebbe anche, lasciatemelo dire, una scorrettezza, visto che il veto esiste proprio come strumento per avere decisioni condivise. Se poi lo si aggira in questo modo non ha più senso nemmeno il veto. Tema delicatissimo, perché chiaramente va a danneggiare, o andrebbe a danneggiare, le nostre imprese, soprattutto quelle piccole e medie. Ancora parleremo delle ferrovie dello Stato e, scusate la voce, dei consumi natalizi. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. Allora, nel frattempo, visto che siamo sempre in tema di mercati, la decisione presa ieri dal FTSE Italian Joint Executive Group, in sostanza chi gestisce l'indice principale di Piazza Affari, sta animando anche la giornata del mercato, perché dal paniere dei 40 titoli di maggiore capitalizzazione usciranno CIR, Geox, Unipol il prossimo 17 dicembre. Al loro posto entreranno Diasorin, Enel, Green Power e Tods. Uscirà il 30 dicembre anche Italcementi e entrerà invece Fiat Industrial, che è la nuova società che nasce dalla scissione del gruppo Fiat. Materie prime oggi tranquille, l'oro è in calo a $1,388 in Asia, ieri il nuovo record storico a $1,431, il petrolio in calo a $88,6 al barile. E invece il governatore dell'Iran, oggi all'interno di un convegno sui paesi esportatori, ha sostenuto che è naturale che il petrolio salga fino a $100 al barile. Ci spostiamo in America, perché? Perché ieri in serata, dopo settimane di discussione, è arrivato l'accordo tra repubblicani e democratici sulla proroga dei tagli fiscali, quelli decisi nell'ultima parte dell'era Bush, che erano in scadenza a fine anno. Barack Obama ha annunciato di aver accettato un compromesso di fatto imposto dai repubblicani, che prevede una proroga degli sgravi fiscali per 2 anni per tutti i contribuenti, anche i più ricchi. E questo è un po' un passo indietro rispetto alla linea, diciamo, di politica di Barack Obama. Devo dire che di passi indietro ne ha fatti parecchi. Molti ci fanno notare anche l'atteggiamento nei confronti di WikiLeaks, dell'Afghanistan. Comunque, in sostanza gli sgravi resteranno anche per i più ricchi, anche per chi ha più di $250,000 di reddito, rappresentano meno del 5% della popolazione americana, ma da loro arriva il 40% delle entrate fiscali relative alle tasse sul reddito. In cambio del mantenimento degli sgravi fiscali sui più ricchi, Obama ha ottenuto il prolungamento per 13 mesi dei sussidi di disoccupazione, però ha detto: io ho agito in questi termini perché il popolo americano era ostaggio del modo di fare politica a Washington, e comunque l'America è stata fondata sul compromesso. My number one priority is to do what's right for the American people. La priorità numero uno è fare ciò che è giusto per gli americani, per l'occupazione e per la crescita economica. Voglio che decine di milioni di persone non vedano le proprie buste paga diventare più leggere dal 1 gennaio, solo perché qui a Washington è in corso una battaglia politica. Grazie a questo accordo la classe media americana non vedrà aumentare le tasse dal 1 gennaio. È una promessa che ho fatto sia in campagna elettorale sia da presidente. Grazie a questo accordo 2 milioni di persone senza lavoro saranno in grado di pagare l'affitto. So che qualcuno avrebbe preferito che la battaglia politica continuasse e sicuramente le posizioni continueranno a contrapporsi. Ma nel frattempo non sono qui a giocare con le vite degli americani o con lo stato di salute dell'economia. Il mio lavoro è fare di tutto per far muovere l'economia e per favorire l'occupazione. Non era giusto prolungare la battaglia tra i partiti. Le vittime collaterali sarebbero state le famiglie americane, il tenore di vita dei lavoratori e dei disoccupati. Io ho dato la priorità agli interessi del paese. Se non avessi agito così, 2 milioni di disoccupati sarebbero rimasti senza copertura e decine di milioni di persone avrebbero visto diminuire la busta paga. Attualmente non corriamo il pericolo di una seconda recessione, ma l'economia non corre così forte da abbassare il tasso di disoccupazione. Contiamo che questo pacchetto dia una spinta all'economia e alla creazione di posti di lavoro. Ripeto, ho agito come ho agito perché il popolo americano era ostaggio di una battaglia politica. Nel mio partito, così come tra i repubblicani, qualcuno non accetta compromessi, ma l'America America è stata fondata sul compromesso. This country was founded on compromise. This country was founded on compromise. Se la nostra nazione è stata fondata, si fonda sul compromesso, è una regola politica che bisognerebbe ricordare anche in Italia ogni tanto. Vabbè, andiamo avanti. In Germania un inatteso calo delle esportazioni, meno 1,1% a ottobre. Invece va bene, continua ad andare bene in Germania la produzione industriale, più 3% sempre a ottobre, sopra le stime. E poi oggi nuove dichiarazioni del direttore generale del Fondo Monetario Dominique Strauss-Kahn, il quale ha detto una cosa che questa volta condividiamo, gli abbiamo regalato il nostro gufo settimana scorsa per quella frase ambigua e assurda di alcuni paesi vicini al baratro. Oggi Strauss-Kahn dice basta comunque con i too big to fail, i soggetti, le banche in primo luogo, troppo grosse per essere fatte fallire, basta con il circolo disastroso dei guadagni privati e delle perdite pubbliche. Uno Strauss-Kahn 68, no? Quando si diceva la capitalizzazione dei profitti, la socializzazione delle perdite. Comunque, mentre Strauss-Kahn si avvicina ai concetti del 68, in Irlanda è successa una cosa incredibile. L'Irlanda, lo sapete, ha due banche che sono tecnicamente già fallite, è un paese che è stato salvato dall'Europa, 85 miliardi quasi di fondi. Insomma, pensate, adesso non è una battuta, nel giorno in cui il Parlamento irlandese con molta difficoltà ha approvato un piano di tagli, di austerity durissimo, il più severo a memoria d'uomo, alcuni bancomat della Bank of Ireland, mi viene da ridere, sparsi per tutto il paese, hanno iniziato a distribuire più denaro di quanto non ne possedessero i correntisti, perché uno chiedeva di 10.000 euro e ne arrivavano 12, 13, 14.000. A quel punto si è sparsa la voce, lunghe file si sono formate ai bancomat delle meraviglie, chiamate, insomma, è più da Pinocchio che da Focus Economia questa notizia. Poi la doccia fredda, Vincent Brennan, il capo della sezione bancomat e pagamenti della Bank of Ireland, che non è l'ultima banca in Irlanda, ha detto che il disguido è stato causato da forme di fido non autorizzate e chi ne ha tratto vantaggio dovrà restituire il denaro, auguri. Ma no, magari in Irlanda succede veramente così, non oso pensare in questo paese. Allora, intanto scattano a livello di Commissione Europea le riduzioni delle commissioni sulle carte di pagamento, cioè non si potranno applicare commissioni sulle carte di credito superiori allo 0,2%. E poi, come vi hanno raccontato anche i nostri GR, la multa per il cartello asiatico degli schermi piatti dei televisori a cristalli liquidi LCD, multa da 650 milioni di euro, in gran parte attribuita al gruppo LG. Ancora due notizie, poi parliamo della Germania, che oggi comunque presenta anche più di uno spunto. La Banca d'Italia ha fatto sapere che praticamente il 5% delle famiglie sottoscrittrici di un mutuo si sono rivelate insolventi. È il valore più alto, insieme a quello della Spagna, tra i 7 paesi europei analizzati, che sono Gran Bretagna, Francia, Finlandia, Olanda, Irlanda e appunto Spagna e Italia. Il 5% è tanto, perché le famiglie complessivamente sono il 13% del totale, quelle che accendono un mutuo, e il 5%, quindi quasi una su tre di quelle che hanno un mutuo, il 5% del totale, ma una su tre di quelle che hanno mutuo non riesce a pagarlo completamente. E poi una notizia invece positiva che riguarda le ferrovie dello Stato: la Deutsche Bahn, cioè le ferrovie tedesche, hanno dato il via libera alla vendita della società di trasporti regionali Arriva Deutschland a Trenitalia. Lo ha comunicato la stessa Deutsche Bahn in una nota stampa. Non ha indicato la montata dell'operazione. Il consorzio è formato da Trenitalia e dal fondo franco-lussemburghese Cube, e da quello che noi sappiamo avrebbe offerto più di 370 milioni di euro per acquisire appunto la società di trasporti regionali Arriva Deutschland. E Arriva Deutschland anche per noi, se mi permettete il gioco di parole, perché adesso il primo tema di cui ci occupiamo è proprio la Germania, il ruolo della Germania in questa crisi, il no tedesco qualunque forma di qualunque ipotesi di eurobond, di obbligazioni emesse, di titoli di Stato emessi da tutta l'Europa, non solo da alcuni paesi, per distruggere la speculazione, per rendere inattaccabile il debito europeo, perché chiaro è che se tu emetti delle obbligazioni a livello europeo è difficile attaccare l'intera Europa, molto più facile attaccare il singolo paese, che si chiami Portogallo, Irlanda, Grecia o anche in questo caso Spagna. E allora 349-238-6666 per i vostri sms. Mi fate notare che fu Ernesto Rossi, uno dei padri del liberalismo italiano, a usare la frase capitalizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite. Avete ragione, era poi uno slogan molto utilizzato nel 68. Comunque, partiamo con la Germania. Prima le notizie di cronaca. Allora, oggi quanto rende un'obbligazione tedesca? È salito il rendimento del Bund, è salito al 3%, è la prima volta dal 10 maggio. Allora, voi direte perché la Germania è vista a rischio? No, non per questo motivo, il motivo è un po' più sottile. Siccome si sono ridotti i rendimenti delle obbligazioni di altri paesi a rischio, Portogallo, Spagna, anche Italia, e quindi il mercato è un po' più calmo, è meno speculativo, è meno aggressivo, ritiene un po' meno a rischio il debito di questi paesi, cosa è successo? È successo che la Germania oggi doveva collocare anche lei dei titoli di Stato, dei Bund appunto tedeschi, e a due anni, come i nostri BTP a due anni, però non ha trovato compratori. Nel senso che ha offerto 5 miliardi di titoli di Stato, ma ha trovato compratori solo per 4 miliardi. Perché? Non perché la Germania sia considerata come la Grecia, ci mancherebbe, ma perché in questo momento è più redditivo investire su titoli spagnoli, italiani, non parliamo di quelli portoghesi e irlandesi, sapendo o immaginando che tanto nulla lì crollerà, rispetto ai titoli tedeschi. E quindi paradossalmente la Germania risulta penalizzata dal miglioramento della situazione del debito dei paesi a rischio, i PIGS o i paesi diciamo dell'Europa mediterranea, anche se l'Irlanda è tutto tranne che mediterranea. E quindi il tesoro tedesco è stato costretto ad alzare l'offerta, alzare il rendimento, e così si spiega che il tasso dei Bund è salito al 3% per la prima volta dal 10 maggio scorso. E poi una stoccata alla Germania l'ha data anche il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, che ha detto la posizione della Germania sulle le obbligazioni europee, sugli eurobond, è semplicistica ed è anti-europea. Ma ha risposto a breve giro il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, ha detto: noi continueremo a opporci alla proposta delle obbligazioni europee, degli eurobond. Ecco perché vorremmo parlarne con chi oggi in prima pagina su Sole 24 Ore scrive invece in senso contrario, dice no, il piano di eurobond è un debito che rafforza o rafforzerebbe l'Unione. Guido Gentili, ex direttore del Sole 24 Ore, nonché editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, a parte il fatto che lo dico con il massimo, così, un po' scherzando, senza cattiveria, ogni tanto anche la Germania capisce che è difficile collocare le obbligazioni perché diventando più affidabili gli altri paesi non ha trovato sottoscrittori, rendevano troppo poco. Sì. E quindi, insomma, anche su questo tutti siamo nella stessa barca, i tedeschi ogni tanto dovrebbero ricordarlo, pur essendo i fratelli virtuosi. Di fratelli europei ha parlato ieri l'economista Roberto Perotti, che ne aveva scritto su Sole 24 Ore, immaginando un fratello Klaus tedesco molto bravo, che risparmia, che fa pochi debiti, che ha molto contante, un fratello Patrick irlandese che invece si è mangiato tutto, ha vissuto al di sopra delle sue possibilità, ha preso soldi in prestito perché le banche gliele davano, un fratello Pedro spagnolo che anche lui è messo malino, un fratello Dimitri greco che ha fatto peggio di quello irlandese, un fratello portoghese João, vado a memoria, che anche lui ha speso più di quanto potesse, poi c'è il fratello italiano Francesco che pur essendo abbastanza bravo in questo periodo, negli anni passati ha mangiato e speso l'impossibile. E allora diceva Perotti, Che senso ha? Non si può chiedere al fratello virtuoso di salvare tutti gli altri fratelli. A un certo momento bisogna interrompere questo ciclo. Sentiamo, o circolo vizioso, sentiamo questo passaggio. Il problema dell'Europa di questi anni è che sia i paesi sovrani sia le banche hanno preso rischi eccessivi, si sono indebitati eccessivamente sapendo che prima o poi qualcuno li avrebbe salvati. Prima o poi bisogna avere a che fare con questo problema, non si può ignorarlo. Quindi quello che io credo che debba succedere, siccome non si può salvare tutti, il contribuente tedesco si rifiuterà di salvare la Spagna, al massimo forse arriverà a salvare il Portogallo, ma si rifiuterà di salvare la Spagna. Quello che secondo me deve succedere prima o poi è che si accetti che un paese sovrano possa fare un fallimento parziale, perché qui non stiamo parlando di un fallimento totale, stiamo parlando di una default parziale sul debito. Se si ha paura per gli effetti sistemici sui mercati finanziari e sulle banche, salviamo tutte le banche, tranne una o due ogni volta, e così si spera che si insegni una lezione ai paesi e alle banche. Quasi tutte le banche francesi e tedesche potrebbero sopravvivere a un fallimento parziale, a un default parziale dell'Irlanda. Sono quasi certo che le banche inglesi possano sopravvivere, erano le più esposte all'Irlanda. Le altre, se proprio siamo convinti che a un certo punto si vede che non possono sopravvivere, salviamone uno o due. Se tutto si ferma al Portogallo, ok, l'Europa può sopravvivere. Quando arriva la Spagna, la Germania non si mette a salvare la Spagna, anche perché se arriva la Spagna arriva anche l'Italia, non è che si ferma la Spagna. E la Germania non vuole e non può salvare la Spagna e l'Italia. Quindi tanto vale insegnare una lezione ai mercati prima. Allora, nel frattempo, mentre parlavamo, è arrivata anche la nota di Angela Merkel, il cancelliere tedesco, che risponde a Jean-Claude Juncker, che aveva definito l'atteggiamento tedesco anti-europeo, dice: dovremmo lavorare con calma e in modo mirato, ribadisco il mio no alle obbligazioni europee. Allora, Guido Gentili, per quello che riguarda la posizione di Perotti, lasciamo stare la Germania, in questo momento, lui dice: o noi blocchiamo la cancrena, io ho usato l'esempio del medico che se è troppo pietistico fa il male del paziente, o blocchiamo la cancrena a costo di amputare, scusatemi il passaggio un po' macabro, ma di amputare un arto, o se no rischiamo di fare peggio. Delle volte certe decisioni sofferte sono meglio che il pietismo. Ma io capisco il ragionamento di Perotti e in parte lo condivido anche, però dobbiamo esaminare la situazione in tutti gli aspetti. Ora, facciamo l'esempio del caso greco, che è il primo che si è parato di fronte all'Europa e che ha portato, ha scatenato la valanga che oggi abbiamo sotto gli occhi. Ora, per aggiustarsi la Grecia deve sostanzialmente totalizzare un avanzo primario del deficit in rapporto al PIL di circa l'8% all'anno nei prossimi anni. È un aggiustamento straordinario. Forse può essere l'occasione di un anno, di due anni, ma come fa un paese, anche in termini sociali, a sopportare un aggiustamento di questo tipo? Quindi lo stesso discorso per la Grecia andrebbe ripetuto per l'Irlanda o per il Portogallo e poi per arrivare appunto alla Spagna. Quindi ci sono c'è un contesto tale per cui non è possibile, secondo me, dire fallisce un paese, lo lasciamo fallire e poi gli altri si comporteranno meglio. No, avremo degli effetti comunque a catena, quindi bisogna prendere atto di questa situazione. La proposta degli Eurobond, anche se a mio avviso è molto difficile che andrà in porto proprio per l'opposizione tedesca, e anche questa secondo me per certi aspetti è un'opposizione comprensibile, però la proposta degli Eurobond ha il merito quantomeno di evidenziare quelli che sono i problemi veri dell'Europa, ha il merito di evidenziare il fatto che a rischiare è l'euro e il sistema e l'intera Eurozona, e quindi bisogna fare qualcosa se la vogliamo fare per tenere in piedi questa Europa, che come sappiamo poi è nata con una moneta unica ma senza un'unità politica vera dietro. E quindi dobbiamo prendere atto di questa situazione, quindi o alziamo la posta e ci proviamo, oppure prevarrà inevitabilmente la posizione della Germania. Allora, vedo anche dei messaggi al 349-238-6666 che adesso affronteremo. Tu ricordavi come sia comprensibile anche la posizione tedesca. Io ricordo, e poi vorrei sentire anche il tuo commento su questo, che a vantaggio di chi sostiene la tesi delle obbligazioni europee, c'è il fatto che un'obbligazione emessa da tutti i paesi dell'area euro vorrebbe dire che tu vai a comprare, quando compri questa obbligazione, il debito europeo, cioè il debito della Francia, dell'Italia, della Germania, della Spagna, del Portogallo, dell'Irlanda. Scusami, una quota del debito, una quota, una quota è anche, diciamo, relativa. Il ragionamento qual è? È che è difficile, sarebbe un'obbligazione a buona garanzia, perché insomma è difficile immaginare un attacco a queste economie che sono la terza, la quarta e la quinta a livello mondiale. Così come, pur avendo l'America un deficit che viaggia al 13%, una disoccupazione sopra il 10%, un debito che aumenta di anno in anno, nessuno sta attaccando il debito americano, i T-bond, le obbligazioni americane, perché nessuno, neanche lo speculatore più cocainomane del mondo, immagina di poter attaccare un paese come l'America e immaginare che l'America possa andare in fallimento, perché è grossa, potremmo dire too big to fail nel caso, diciamo, del debito dei singoli paesi. Io però ti vorrei chiedere, insomma, se questo in realtà non possa rappresentare una scusa per i paesi come Grecia, Irlanda, Spagna, Portogallo e anche Italia per spendere ancora di più, che è il timore tedesco. Dice, voi come un fratello, no, tu hai già speso, ti sei bruciato il patrimonio di famiglia, hai già speso più delle tue possibilità, chi mi assicura che se io metto assieme i nostri conti correnti tu non tornerai a spendere di nuovo perché hai le mani bucate. Cioè, io se fossi un tedesco direi, chi mi dà garanzie che i fratelli spagnoli, portoghesi, irlandesi, non parliamo di quelli greci, e anche gli italiani useranno queste obbligazioni europee per spendere di più, cioè per sostanzialmente tornare a fare quello che hanno fatto in questi decenni. Allora, in linea, diciamo così, teorica, la garanzia dovrebbe essere data dal fatto che appunto una parte del debito nazionale di ciascun paese viene appunto trasferita diciamo a livello europeo, e diciamo il costo dell'approvvigionamento diciamo sarebbe, diciamo, da questo punto di vista sarebbe a prezzi diciamo bassi, e questo dovrebbe garantire sostanzialmente un impegno rigoroso e ferreo diciamo dal punto di vista del, se tu vuoi ottenere diciamo spuntare dei buoni tassi di interesse dovrai comportarti bene dal lato della finanza pubblica. Il problema semmai è per la parte rimanente, secondo me, e per questo dico che poi la proposta va ancora ben approfondita, per la parte rimanente, cioè l'altra 50% diciamo del debito che rimane in carico al paese, all'economia diciamo nazionale, che anche quello diciamo va piazzato sul mercato. Quindi è chiaro che la speculazione potrebbe guardare a questo secondo mercato diciamo parallelo, per cui se tu non ti comporti bene sarai costretto ad alzare i tassi di interesse, e quindi questo sarebbe diciamo avrebbe un valore segnaletico diciamo molto alto. Quindi ci sono diciamo delle ragioni per cui è ipotizzabile diciamo sperare che diciamo un comportamento più rigoroso. Però ci sono anche le ragioni della Germania, da questo punto di vista ripeto le capisco, perché non dimentichiamo che la Germania in piena crisi, nel pieno della grande crisi degli ultimi anni, diciamo ha compiuto due passi importanti istituzionali. Il primo è la sentenza della Corte Costituzionale tedesca sul Trattato Europeo di Lisbona, dove sostanzialmente ha fissato dei paletti molto rigidi per quanto riguarda diciamo i poteri, diciamo il potere di il rapporto tra poteri nazionali, di sovranità nazionale, e i poteri sovranazionali dell'Europa, in questo senso rassicurando l'opinione pubblica interna tedesca. E il secondo passaggio è stato quello di inserire a livello della Costituzione un limite dello 0,35% del deficit in rapporto al PIL da raggiungere entro il 2016. Quindi diciamo, siccome queste sono due cose diciamo fissate a livello istituzionale, i tedeschi diciamo come è noto sono i tedeschi, quindi hanno diciamo delle condizioni granitiche su questo ed è difficile fargli cambiare parere, e quindi dobbiamo fare i conti con una realtà di un paese che ritiene di non dover diciamo impegnarsi più di tanto, e perché guarda con preoccupazione a quello che potrebbe essere diciamo l'allargamento di questa crisi, e quindi arrivare alla Spagna, arrivare all'Italia, e quindi non ce la fanno. Colgo lo spunto di alcuni sms al 349-238-6666 per fare però anche una riflessione. Allora, è vero, la posizione tedesca è assolutamente comprensibile, e anche il fatto che, come certi fratelli in famiglia, non possa anche non fidarsi più. Faccio solo notare che le banche tedesche, però, e anche quelle francesi, perché la Francia sta più zitta, non vuole rompere i rapporti con la Germania, però insomma ha una posizione un po' pilatesca, un po' cerchiobottista. Ma dicevo, le banche tedesche sono molto molto esposte verso la Spagna, il Portogallo, oltre che l'Irlanda, e anche verso la Grecia. Cioè, quando poi questi paesi sono andati in crisi, Grecia e Irlanda, si è scoperto che le prime banche a aver prestato soldi a questi paesi erano quelle tedesche e francesi. Verissimo. Per cui anche lì un po' di coerenza. Allora, se tu non vuoi prestare, non è che non dividiamo il conto corrente, questo lo posso capire, però mi presti i soldi per mangiarci sugli interessi, o mi ritieni inaffidabile, allora non mi presti neanche i soldi a livello bancario, oppure ritieni che siamo tutti quanti nella stessa barca, mi presti i soldi, ci guadagni con gli interessi, però poi facciamo anche delle obbligazioni europee. Questo un minimo, anche certo, perché non penso che la Germania, di fronte a un crack di Portogallo, eventualmente Spagna, ne uscirà molto meglio di altri paesi, proprio per questa sua esposizione bancaria. Ultima nota, invece, ci chiedono, Guido Gentili, come funzionerebbero queste obbligazioni europee. È chiaro che ci sarebbe un'agenzia europea del debito, un ente europeo del debito, che dovrebbe emettere queste obbligazioni come soggetto giuridico, questi titoli di Stato che tu vai a comprare, stabilire il rendimento. Se per esempio i vertici di questa agenzia, che come tu ricordavi avrebbe in pancia pezzetti del debito dei vari paesi, non tutti i debiti, esatto, se questa agenzia fosse guidata dai tedeschi, forse potrebbe essere una soluzione. Cioè, facciamola anche a Francoforte, in modo che loro abbiano il pieno controllo sul rigore di chi emette questo, di chi gestisce questi debiti. Beh, certamente questa può essere una strada. Del resto questa è stata un po' la strada che ha ispirato, diciamo, la stessa Banca Centrale Europea, diciamo, che aveva un po' ricalcato le orme della Bundesbank tedesca, no? La Banca Centrale Europea è nata, per esempio, al contrario della Federal Reserve americana, con il solo obiettivo di controllare l'inflazione, che è un po' sempre stato il tratto distintivo delle richieste. Dalla Repubblica di Weimar in poi la Germania si è beccata il nazismo per colpa dell'inflazione, nella memoria storica. Certo. Vabbè, vedremo. Mi sembra che la proposta di Tremonti e Juncker sia in questo momento abbia un ostacolo enorme, appunto il macigno tedesco, però è giusto ragionarne, è giusto trovare la stretta via, come si dice in politichese, in questo caso per tenere assieme l'Europa, anche perché, come tu ricordavi nel tuo articolo di oggi su Sole 24 Ore, citando il politologo americano Charles Kupchan, insomma, c'è una tendenza in Europa a andare ognuno per conto suo, a risvegliare i nazionalismi. Quindi un conto è il rigore, un conto è dire io sono la Germania e faccio quello che voglio, perché a questo punto non tiene più la casa europea. Con il rischio che magari sia un domani la Germania a dire a far saltare l'euro. Allora, grazie all'ex direttore del Sole 24 Ore, nonché editorialista, Guido Gentili. Grazie a voi. E adesso l'ampia pagina di borsa. Perché? Perché oggi è veramente una giornata incredibile. La festività, voglio dire, dell'Immacolata c'è in Italia. Il ponte con Sant'Ambrogio c'è solo in Italia. Infatti, negli altri paesi dove non è festa, o non è una festa così nazionale, le borse sono tutte in calo o guadagnano poco. La Germania perde lo 0,40, Londra perde lo 0,20, Parigi guadagna lo 0,5%, l'Italia, quando i piccoli risparmiatori non possono comprare, oggi vede Fondiaria Assai, un titolo massacrato in queste settimane, perché il piano di ristrutturazione di Premafin, cioè della famiglia Ligresti, su Fondiaria Assai non convince, l'aumento di capitale, l'ingresso di Gruppo Amal, abbiamo raccontato, non convince gli investitori. Ebbene, oggi Fondiaria Assai guadagna il 9,34%, il 9,34%. Il Banco Popolare, anch'esso dovuto ricorrere a un aumento di capitale, bastonato in borsa per settimane, guadagna il 9,2%. E poi c'è Fiat più 4,1%, la Popolare di Milano più 3,40%. Mediolanum più 3,1%, Generali più 2,7%. Cosa sarà successo mai con le banche e i borsini chiusi? Paolo Paronetto, agenzia di stampa Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Svelaci il mistero di Fatima. Ma oggi, come ricordavi tu, visto il clima festivo, gli scambi sono stati abbastanza ridotti e questo ovviamente ha favorito brusche oscillazioni dei titoli, che sono stati ovviamente comprati da chi lo poteva fare, quindi fondamentalmente. E chi è che lo poteva fare oggi? Investitori istituzionali che hanno capacità di operare al di là di queste chiusure festive. Segnaliamo che anche il mercato spagnolo ha chiuso in deciso rialzo, anche in Spagna la festività è comunque sentita, si è salita dell'1,55%, ma comunque appunto è stato un mercato con volumi piuttosto ridotti, inferiori comunque alla media del No, ma sono queste cose anche in Spagna, per carità, non è solo l'Italia, che ci fanno un po', ci lasciano un po' perplessi, perché insomma o lo si chiude per tutti, allora domani si ritorna a operare in borsa, o se no non si capisce perché in giornate in cui possono operare pochi eletti, poi il mercato guadagna queste cifre. Io non vorrei mai, ma può essere la sensazione che domani gli stessi titoli faranno un calo, una correzione, vedremo, magari mi sbaglio, ci mancherebbe, però sarebbe paradossale che domani riaprono le banche, uno potrà fare acquisti sui titoli e va a comprare mentre il titolo scende. Cioè qui l'abbiamo già visto in passato, ad agosto, in alcune giornate particolarmente festive. Vabbè, vabbè, sì, c'è l'online, oggi operano tutti, scrive un ascoltatore un po' maleducato perché dice sveglia, siamo svegli per quello che riusciamo a fare. C'è l'online, sì, vogliamo dire che tutti operano con online, diciamolo pure, va bene. Allora, vediamo Fondiaria SAI, più 9,3%. Fondiaria SAI ha guidato il recupero del settore assicurativo, che esce da un novembre decisamente negativo, con le quotazioni scese molto, quindi ovviamente può rappresentare delle occasioni di acquisto. In particolare Fonsai, come ricordavi anche prima, ha perso moltissimo anche in seguito alle vicende legate alla ristrutturazione del debito di Prema, fine all'ingresso previsto del nuovo partner francese di Groupama. Il titolo è tornato a sfiorare quota 6 euro, ha chiuso a 5,97, guadagnando oltre il 9%, appunto il 9,34%. Il settore è andato bene in tutta Europa, è stato il migliore, il sottoindice del comparto ha guadagnato oltre il 2%. Allora, anche se devo dire che non è che non ho capito, ma non la tua spiegazione, non ho capito perché del più 9,3% oggi, cioè non ho letto niente, nessuna dichiarazione della famiglia Ligresti, nessuna dichiarazione di Groupama, non ho visto che gli immobili che rappresentano qualche difficoltà, soprattutto a Milano, per Premafin, non ho visto nuove valutazioni di mercato, però forse ero, come diceva l'ascoltatore, addormentato io oggi. Può essere... No, non c'erano proprio, semplicemente quella che ha perso di più. E quindi, Uno va, ecco, bella è un'occasione più delle bella motivazione. Banco Popolare, come ce la caviamo? Il Banco Popolare in questo caso qualche notizia sì, c'è. Sì, c'è sabato. Poi inoltre anche oggi è stato riportato che il consorzio di garanzia delle banche che dovrà garantire l'aumento si è chiuso e ha avuto l'allargamento, ha aumentato molto il numero delle banche coinvolte da 5 a 14 secondo quanto riferito dal Messaggero. Inoltre a breve potrebbe chiudersi prima del previsto la trattativa con i sindacati per i 500 esuberi previsto, che potrebbe arrivare a conclusione positiva già in settimana, in tempo per un annuncio ai soci e nell'assemblea straordinaria che, ricordiamo, si terrà sabato e che dovrà appunto dare il via libera e il mandato al consiglio di amministrazione per l'aumento di capitale da 2 miliardi. Allora, un altro ascoltatore ci fa notare che quelli che hanno un conto online possono fare acquisti in borsa. Avete ragione, lo sappiamo, abbiamo solo detto, poi magari ci sbagliamo, che insomma o per tutti o per nessuno, così vorrebbe, no? No, siete così convinti che tutti i risparmiatori usino l'online? Se è così, chiedo venia, però... Un po' strana, eh? Dopodiché, se aveste ragione voi, i volumi dovrebbero essere simili a quelli di una giornata normale. Invece, come sono i volumi oggi, Paolo? Inferiore alla media dell'ultimo mese, sicuramente, tranne per qualche titolo. Allora, vuol dire, se ci sono meno volumi, vuol dire che meno gente compra e vende, vuol dire che evidentemente non tutti lo fanno con online. Andiamo avanti, su Fiat, più 4,1%. Invece qui un po' di notizia c'è, perché ricordavamo che ieri è stata presa la decisione di far uscire alcuni titoli dal paniere dei 40 titoli principali del quello che noi usiamo sempre, no? Il FTSE MIB, e fanno entrare degli altri. Allora, usciranno dal prossimo 17 dicembre, venerdì 17 dicembre, ci terremo forti, CIR, Geox, Unipol. Al loro posto entreranno Diasorin, Enel, Green Power e Todds. Pochi giorni dopo, ossia il 30 dicembre, la chiusura di borsa, uscirà Italcementi e entrerà Fiat Industrial, che è quello che risulta, diciamo, dalla scissione del gruppo Fiat nella parte, diciamo, auto e nel resto delle attività Fiat. Il motivo per cui Fiat sale è riconducibile a questo? Sì, probabilmente è stata riportata anche sotto i riflettori ancora di più proprio questo annuncio. Fiat Industrial, che debutterà e nascerà e debuttare le contrattazioni all'inizio del prossimo anno, lo farà direttamente nel paniere principale, e non è soltanto una questione di prestigio, perché il paniere è spesso quello che viene replicato nella maggioranza degli ETF, quindi dei fondi internazionali, e quindi sono i titoli su cui si concentrano gli acquisti, anche proprio per ragioni tecniche di composizione dei fondi, e quindi il titolo oggi è stato premiato anche per questo, mentre appunto ormai il debutto della nuova Fiat Industrial della scissione è sempre più vicino. Gli investitori hanno spinto il titolo, che ha aggiornato i nuovi massimi dal 2008, ha chiuso a 14,63 euro con un rialzo di oltre il 4%. Nel frattempo l'euro a quota 1,3230, non mi preoccuperei, lo diciamo spesso. Bene anche Popolare di Milano, non così forte come Fondiaria e Banca Popolare. Popolare di Milano guadagna 3,40%, Mediolanum un più 3%, Generali più 2,70, Ubibanca più 2,5, dicevamo Unicredito più 2,3. Oh, tutte le banche bene oggi? Sì, praticamente tutte, anzi sul FTSE sono assolutamente tutte in rialzo, le migliori le ricordavi tu, anche Intesa salita del 2%, anche MPS, tra gli assicurativi anche Unipol, che è una di quelli che uscirà dal FTSE MIB, non ha risentito come le altre della notizia, ha approfittato del rialzo generale e ha guadagnato l'1,4%. Ancora Mediobanca più 2,2, Buzzi Unici più 2,2, Parmalat più 2, Intesa più 2, Lottomatica più 1,70, Monte dei Paschi più 1,60, Unipol più 1,40, Snam più 1,20, Comexor, Prismian e basta, perché poi Campari e Pirelli guadagnano l'1%. Chi perde? CIR meno 3,26, Bulgari meno 2,5, Tenaris meno 1%. CIR e Bulgari? CIR, la notizia è proprio quella dell'uscita dal FTSE MIB, gli investitori stanno cominciando ad alleggerire le proprie posizioni, ha perso oltre il 3%, anche GEOX che uscirà ha perso lo 0,78%, su Bulgari invece gli operatori parlano di realizzi dopo i recenti rialzi, il titolo è stato venduto tra quelli più venduti, ha perso il 2,5%, in questo caso i volumi sono in linea con quelli dell'ultimo mese. Allora, migliori e peggiori in assoluto, TAS più 15,50%, Monti Ascensori, non la faccio più la battuta, sale più 12,5%, Investimento e Sviluppo più 10,90% e poi Fondiaria Sai. Resta il quarto segreto di Fatima, capire perché la borsa sale oggi, soprattutto sui bancari, notizie non abbiamo viste, ma sarà colpa nostra. Grazie intanto a Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore. E allora, dicevamo della borsa che con poche operazioni, pochi volumi, vista la festività, ha fatto questo rialzo incredibile su alcuni titoli, Fondiaria più 9,3, Banca Popolare più 9,2. Cambiamo tema invece e occupiamoci di una cosa che può sembrare un tema semplicemente politico, ma che invece ha anche una sua valenza, ce l'ha forte dal punto di vista economico, ossia il tema della lingua da utilizzare in Europa per i brevetti. Allora, la polemica va avanti da qualche mese. La Commissione europea infatti ha proposto un sistema di tre lingue per registrare i brevetti europei. Le lingue ufficiali, quindi uno può registrare un brevetto, potrà o potrebbe, se passerà questa linea, registrare un brevetto in inglese o in francese o in tedesco. Non si capisce, lo dico obiettivamente, perché non lo spagnolo a questo punto, essendo una delle lingue più parlate, forse ormai ha quasi raggiunto l'inglese come lingua più parlata al mondo, e anche l'Italia. Allora, Spagna e Italia si oppongono, chiedono che ogni paese possa registrare i brevetti nella propria lingua. E quindi Roma e Madrid hanno posto il veto sulla proposta. Per queste decisioni è necessaria infatti l'unanimità dei paesi europei e la proposta si è bloccata. E fin qui, diciamo, la storia che conoscevamo. E adesso invece arriva la novità. Perché? Perché Bruxelles sta attendendo una lettera di almeno 10 paesi pronti di fatto ad isolare Spagna e Italia e quindi aggirare il potere di veto sulla norma del trilinguismo, delle tre lingue. Come? Beh, facendo degli accordi in qualche modo bilaterali, cioè si appellerebbero a una disposizione dello Trattato di Lisbona e il nuovo metodo di registrazione entrerebbe in vigore per i paesi che vi aderiscono, per cui se 10 paesi aderiscono, 10 paesi possono adottare il trilinguismo, di fatto aggirando il veto europeo e isolando in particolar modo Italia e Spagna. L'Italia, da parte sua, aveva proposto nel passato un sistema di registrazione basato unicamente sull'inglese. Facciamolo in inglese, che è la lingua internazionale per definizione. Perché da un lato c'è una questione politica, ma da un lato c'è anche una questione economica. Allora l'affrontiamo con chi si è battuto, devo dire in maniera molto insistita e anche forte, a Bruxelles per porre il veto, per evitare che passasse il trilinguismo nei brevetti, che poi vuol dire trilinguismo anche in altre cose. Questo è il rischio, e mi riferisco al ministro dimissionario per le politiche europee Andrea Ronchi. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a lei. Allora, visto che lei molto si è battuto per questo tema, ci aiuta a capire, il tema politico è forse quello che arriva prima, e cioè che senso ha sancire che esistono tre lingue, di cui appunto tedesco, parlato solo in Germania, francese e inglese, e allora perché non lo spagnolo e l'italiano? Ma qual è il tema economico? Innanzitutto grazie dell'opportunità. È inaccettabile ciò che sta accadendo, gravissimo, va contro poi i principi del mercato unico dell'Europa ed è una decisione assolutamente irresponsabile. Io mi sono battuto con ovviamente l'appoggio di tutto il governo, non per una questione soltanto dal punto di vista culturale, e questo già basterebbe, ma perché l'esclusione dell'italiano penalizza fortemente la piccola e media impresa della nostra nazione. E tra parentesi, questo è un vulnus molto forte per il manifatturiero, non soltanto dell'Italia. È una decisione che, ripeto, è irresponsabile, va contro gli interessi della nostra economia, e io sono convinto che la decisione di fare un'iniziativa di cooperazione rafforzata è un vulnus fortissimo alla stessa Unione Europea. Noi non avevamo proposto l'inglese, noi avevamo proposto di abbattere quello che è il trilinguismo, che sarebbe di fatto formalizzare due tipi di Europa. L'Europa è una, l'Europa 27, c'è l'Europa dei diritti e l'Europa dei doveri. Noi abbiamo chiesto una mediazione. La mediazione, il commissario Barnier all'inizio ritenevamo che potesse accettare un compromesso che potesse portare alla unanimità questa soluzione. Oggi vediamo che tutti i nostri sforzi di mediazione, di accordo, rischiano di essere respinti. È una decisione gravissima che penalizza l'Europa, penalizza le imprese, ma posso rassicurare l'imprenditoria italiana che ci si batterà in modo fermissimo perché questa opzione non possa passare. Allora, se ho ben capito, il piano politico, ministro Ronchi, mi è chiaro, e obiettivamente io noto anche un'altra... Posso interrompere? Non è un problema soltanto politico. Credo che sia un problema proprio di decenza. Ma volevo arrivare lì, nel senso che da un lato non si capisce perché allora non lo spagnolo, perché se dobbiamo essere un'Europa che è comprensibile, lo spagnolo è la lingua, ripeto, parlata. Adesso non ho il calcolo alla mano, magari gli assistenti me lo daranno, ma siamo lì quanto a diffusione dello spagnolo, forse con alcuni paesi del Sud America anche superiore all'inglese, quindi la Spagna ha ragione di dire, vabbè, allora se ci fosse una lingua europea che sia una lingua comprensibile anche in buona parte in tutto il centro Sud America e in alcune parti anche degli Stati Uniti stessi. Però il tema che mi sembra anche delicato dal punto di vista politico è che se due paesi che si chiamino Spagna e Italia, possono chiamarsi Gran Bretagna, possono chiamarsi Francia e Portogallo, pongono un veto, il veto esiste per bloccare le cose, perché si ritiene che ci debba essere unanimità sulle decisioni più importanti. Non è che puoi aggirarmelo facendo il club dei 10. Non c'è dubbio, ma guardi, all'ultima riunione del Consiglio di Competitività devo dire che non soltanto la Spagna, ma la Polonia e altri paesi avevano sostanziali dubbi e ponevano gli stessi nostri problemi. Qui la realtà è che si vuole fare tutti parlano di competitività. In realtà nessuno la vuole la competitività, perché di fatto il trilinguismo che cosa porta? Porta un attacco proprio al discorso della competitività. L'Italia non può tollerare una simile iniziativa, non la può tollerare assolutamente, e posso annunciare che l'Italia, non soltanto il governo, perché io ricordo a me stesso e anche a lei, di cui ringrazio, che c'è stata una mozione unanime delle commissioni alla Camera e al Senato che sostengono la mia iniziativa governativa in ambito europeo. Quindi abbiamo anche la CISL, la Confindustria, la Confcommercio, la UIL, cioè tutti i sindacati che che sono su questa posizione. Quindi l'Italia è in questo momento su questo argomento assolutamente coesa e unita, e la battaglia non si fermerà. Ministro Ronchi, cioè, al di là dell'aspetto politico, che è inaccettabile che si creino anche, che l'Europa diventi a tre velocità, non più a due, con le tre lingue preferite, francese, inglese e tedesco, che è inaccettabile che se c'è un veto di due paesi, che non sono due paesi di poco conto come Spagna e Italia, venga aggirato da un accordo diciamo, tra di loro. Però il danno economico, quindi al di là della variabile politica, quale sarebbe? Una piccola impresa che in un momento di crisi economica come questa, che credo che sia, chi come lei può giudicarla, valutarla, soppesarla, e perché dobbiamo rendere l'impresa italiana non competitiva rispetto ai costi quando deve sobbarcarsi, come dire, oneri rispetto al tedesco, all'inglese, o il tedesco, il francese o l'inglese, quando poi verrà penalizzata proprio sotto questo punto di vista anche della competitività? L'Italia è uno dei paesi in Europa più forte per quanto riguarda i brevetti. E allora io penso che questa sia un'iniziativa contro il sistema economico dell'Italia. Io vado oltre, contro il sistema manifatturiero della piccola e media impresa, perché usciamo dal tema del brevetto, guardiamo come, qual è la logica dell'impresa nell'Europa. Oggi esistono due Europe, c'è un'Europa che è contro il manifatturiero e c'è un'Europa che vive di questo. Allora noi l'abbiamo visto sul CO2, l'abbiamo visto sul Made In, una battaglia storica sulla quale io stesso, come lei sì. ricordato, mi sono battuto in questi anni. Noi dobbiamo tutelare, come d'altra parte fa. Sì, allora sullo sfondo, lei ha ragione, Canada, fanno altri paesi. Sullo sfondo c'è un atteggiamento del nord dell'Italia, l'impresa. Dobbiamo essere contro tutto ciò che è contro. E questo del brevetto è contro l'Italia. Allora, è vero che c'è sullo sfondo una così formamente, un atteggiamento culturale di una parte dell'Europa, quella in cui non esiste o esiste in maniera molto bassa la manifattura come da noi, cioè la piccola e media impresa, e sono paesi più trasformatori di prodotto finale, li chiamo io, cioè importano dalla Cina, dall'India e poi mettono dei marchi, pensiamo alla Svezia, non solo, oppure paesi che producono una manifattura tale come la Germania, di grandi gruppi, che ha quote di mercato, che insomma se ne frega, se mi passa il termine, della concorrenza cinese indiana, ancora per adesso, poi vedremo, che non glielo auguro, ma speriamo non tocchi anche ai tedeschi. Detto questo, i costi sono chiari, vedo anche molti messaggi al 349-238-6666. L'impresa italiana dovrebbe tradurre, se ho ben capito, se passasse questa regola, io dovrei tradurre come piccola impresa il mio brevetto in tre lingue? No, lei può scegliere una di queste. Ecco. Però io potrei scegliere l'inglese. Però certamente noi comunque saremo penalizzati, perché noi comunque rispetto agli altri paesi, è naturale, è ovvio, è quasi banale, non saremmo competitivi rispetto a chi ovviamente poi dovrà di madrelingua realizzare quel tipo di iniziativa. L'Italia comunque verrebbe fortemente penalizzata. Io negli incontri ho avuto anche il commissario Barnier, ho avuto modo anche rispetto ad una documentazione, voglio ringraziare i tecnici anche della presenza del Consiglio, del mio Ministero, che hanno prodotto migliaia e migliaia di documenti per spiegare l'importanza di un accordo a 27, perché vede anche questo discorso della cooperazione rafforzata a 10 e gli altri 17 paesi? Allora quindi non esiste l'Europa 27, e il concetto del mercato unico dove finisce con questo sì, discorso? Sì, dopodiché io aggiungo anche che è chiaro che se passasse l'adozione delle tre lingue per i brevetti diventerebbe di fatto un primo cavallo di Troia per avere le tre lingue come tre lingue ufficiali. È ovvio, secondo, non mi scusi, perché lei sa che chi le parla ha fatto ricorso a nome del governo, per esempio contro i concorsi. I concorsi fatti nelle tre lingue, dove viene penalizzato ovviamente chi non è madrelingua. Qui c'è un discorso molto più profondo, sì, molto più serio rispetto a quello che si vuole fare di questa Europa. Ecco, mettiamola così. Non è consentibile un'Europa a tre. O l'Europa 27 esiste pari per tutti, oppure non esiste, e allora dobbiamo prenderne atto e comportarci di conseguenza. Sì, quindi voi temete che oltre al danno immediato ci sia poi di fatto i concorsi, i brevetti, insomma, chi parla questi non tre... Non è, guardi, che non è una ipotesi, comincia a essere un dato di fatto. Allora, c'è un dato però, che è anch'esso un dato di fatto, dei 68.000 brevetti che vengono registrati ogni anno a Bruxelles, quindi brevetti europei, la metà, e quindi stiamo parlando di 33.000 brevetti, sono tedeschi e francesi. Forse questo permette a loro di chiedere con insistenza che vengano introdotte le due... Guardi, la logica del mercato unico però non funziona su queste su questa logica. Io ritengo che se si vuole fare veramente un discorso del COP 27 dove tutti partono, ma soprattutto in un momento di crisi economica come questo, la cosa che mi addolora di più oggi è che il momento di crisi, che non è finita come lei mi insegna e che andrà avanti, anzi rischia di morte ancora di più, non bisogna fare delle iniziative deleterie come queste che penalizzano. Oggi bisogna realizzare iniziative che possano incentivare, aiutare e sostenere le imprese. Oggi colpire chi vive di manifatturiero, colpire la piccola e media impresa, colpire quei centinaia di migliaia di piccoli imprenditori italiani ed europei che ogni giorno scommettono sulla crisi, non chiudono, investono, non licenziano ma occupano, non dismettono ma investono sulla ricerca, sia veramente una colpa politica e non soltanto politica enorme. Per questo sono sempre convinto che la mia e la nostra battaglia era quella giusta. Allora, che cosa siete disponibili a fare a questo punto a livello europeo, visto che lei ricordava che dietro avete tutto il Parlamento, non solo il governo? Io oggi ringrazio il dottor Letta, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con il quale ho parlato poc'anzi, che ovviamente sostiene questa battaglia e continueremo in questa battaglia. Voglio ringraziare il leader della CISL Bonanni, il presidente di Confindustria Marcegaglia, che ovviamente creano quel tipo di supporto culturale, politico, imprenditoriale, sindacale che ci conforta in questa battaglia. Noi continueremo, io sono convinto che nelle sedi opportune anche il presidente Berlusconi, il presidente Zapatero saranno a porre non soltanto il veto, ma le ragioni di un momento di crisi, che rispetto alla crisi bisogna ragionare per aiutare e non per colpire, sostenere e non affossare. Ritengo che la strada della cooperazione rafforzata sia molto difficile, molto lunga, e probabilmente la presidenza belga, lo dico con amarezza, perché avevo trovato degli interlocutori attenti e accorti alle mie e alle nostre esigenze e alle mie nostre osservazioni. Io ritengo che il semestre ungherese potrà dire una parola chiara rispetto a questa partita. Quindi abbiamo del tempo, ma è chiaro che tutti debbono sapere che l'Italia non defletterà di un centimetro rispetto non ad una battaglia politica, ma ad una battaglia per l'Italia dell'economia. Ecco, mi scusi, Ministro, tutto questo va benissimo, però l'Italia è in una crisi di governo che voi, come FLI, avete riconosciuto più volte. I 14 avevano un voto importante. Tra l'altro i paesi, ci chiedono gli ascoltatori, hanno ragione. Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, Svezia e Slovenia, hanno aderito anche Germania e Francia, e probabili le adesioni di Finlandia, Estonia e Lussemburgo. Il venerdì prossimo in programma il Consiglio sulla competitività, che affronterà la questione. Lei però non ci sarà perché appunto dimissionario. Le chiedo, questa situazione di crisi politica, chiamiamola come vogliamo, insomma crisi è, non rischia poi di indebolire tutto il lavoro fatto fino adesso? Cioè, guardi, come facciamo a portare avanti i nostri diritti se poi in realtà, guardi, non c'è chiarezza sull'esecutivo? Io la ringrazio di questa opportunità. Noi abbiamo in questa fase politica, chi le parla si è dimesso non per distruggere ma per costruire. Noi chiediamo al presidente Berlusconi una compagine più forte proprio per rispondere, per esempio, a queste sollecitazioni che vengono dall'Europa, perché sicuramente c'è una grande difficoltà economica, bisogna rivedere l'agenda dell'economia. La crisi, l'avete detto voi anche tante volte, è molto molto grave, bisogna rivedere l'agenda, e quindi non è fatta per distruggere, è fatta per costruire. Mi auguro che il presidente Berlusconi possa recepire non richieste di poltrone, che come sa chi le parla proprio per sgombrare il terreno l'ha lasciata, ma noi vogliamo un forte centrodestra, ma soprattutto vogliamo delle risposte sui temi dell'agenda economica, che vengono tutti i giorni più importanti, più pressanti, più difficili, più complicate. C'è bisogno di un esecutivo in grado di poter aggredire questa grande crisi economica che si manifesta, per esempio, oggi anche vediamo sul brevetto. Quindi, ma il fatto che lei non ci sarà venerdì prossimo non rischia di essere una debolezza? Guardi, io sono convinto che chi ci sarà in grado, ci sarà ovviamente gli Sherpa che mi hanno accompagnato in questo periodo, sono convinto che al di là della mia persona, e la ringrazio per la stima, saranno in grado di poter portare avanti, come farà sia il capo del governo, come farà il sottosegretario Letta, come farà, io penso alla politica italiana, che in questo si riconosce, a sostenere con forza non le ragioni, ma proprio il senso profondo che chiede la nostra economia. Mi auguro anche che ci sia una risposta positiva sotto il punto di vista dei quesiti che noi abbiamo posto, proprio per rispondere con più forza, e l'argomento di oggi nella prova, da parte di un governo che deve essere più forte, più attento e con delle agende più pressanti rispetto alla grande crisi economica. Questo ne vogliamo. Grazie al Ministro dimissionario per le politiche europee, Andrea Ronchi. Grazie a lei, grazie ai nostri radioascoltatori. Buon pomeriggio. Da Sebastiano Barigioni è veramente tutto. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.